Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. Quinto. Mosca, Kharkov, dicembre 1989. Sulla strada che va dall'aeroporto al centro di Mosca, Edouard si ricorda di quando ha fatto il tragitto in senso inverso. Smaltiva i postumi di una terribile sbornia, disteso sul sedile posteriore dell'auto, con la testa sulle ginocchia di Tania. Lei gli accarezzava i capelli, mentre fuori del finestrino sfilavano schiere di palazzi e distese di boschi che entrambi erano sicuri di non rivedere mai più. Era il febbraio del 1974. Nevicava. Nevica anche nel dicembre del 1989. Sono passati 15 anni. Edoardo ha perduto Tania, torna in patria da solo e se non si guarda troppo per il sottile ci torna da vincitore. Lui e gli altri due ospiti hanno viaggiato in business class e all'aeroporto hanno ricevuto un'accoglienza da VIP. Mentre nel pulmino gli altri si sono sistemati dietro con la ragazza piuttosto carina addetta alle pubbliche relazioni, Edoardo ha preferito sedersi accanto all'autista, un uomo imbronciato dal volto chiazzato di rosso e con il quale prova ad attaccare discorso. Per Edoardo è importante mostrare a quel russo di base, il primo che incontra da quando ha rimesso piede sul suolo natio, che nonostante gli anni trascorsi all'estero, nonostante il successo, lui è rimasto un uomo del popolo e parla la sua stessa lingua. Ma l'autista rimane abbottonato, chiuso in un'indifferenza vagamente ostile, e lo stesso farà il personale dell'Hotel Ucraina, dove i tre vengono portati. L'Hotel Ucraina è uno dei 7 grattacieli stalignani, che sembrano tutti un incrocio fra una banca neogotica e una prigione bizantina e rendono Mosca simile alla Gotham City di Batman. E per gli standard di Mosca è un albergo di lusso, riservato agli ospiti di riguardo e agli alti dirigenti del partito. Edouard ne varca la soglia con emozione. Quando era un giovane poeta underground non aveva mai osato. Resta sorpreso, perché nella hall, ampia come una cattedrale, non regna il silenzio solenne caratteristico dei luoghi del potere, ma un baccano da mercato, da ippodromo. Un andirivieni di ceffi patibolari dai capelli unti che parlano ad alta voce e addirittura appoggiano le scarpe sporche di fango sui tavolini. La sua suite, sfarzosa secondo canoni cui non è più abituato, ha il soffitto altissimo, almeno 4 metri. È illuminata da una lampadina a bassissima tensione ed è accogliente come la cella frigorifera di una macelleria. In passato si poteva star sicuri che i muri e il telefono fossero imbottiti di microspie, ma ora non si è più sicuri di nulla. Si sapeva che se si veniva dall'estero era una pazzia telefonare a un russo, perché significava causargli problemi seri, ma ora sembra che sia possibile chiamare chiunque. Edouard ha con sé un solo numero, quello della madre di Natasha, con cui deve assolutamente parlare, ma la donna non gli risponde al telefono. I numeri degli amici di gioventù non se li è neanche portati dietro quando è partito, 15 anni prima, perché sembrava pacifico che non gli sarebbero mai più serviti. Magari però loro potrebbero essere al corrente del suo ritorno. Forse saranno tutti là, a Ismailova, ad accoglierlo. Halin, Sabgir, Varashilov, quello che rimane degli smoghisti. Non sa se ha voglia di rivederli, ma sa che un evento organizzato da Semyonov ha poche probabilità di passare inosservato. Edouard ha conosciuto Julian Semyonov a Parigi qualche mese prima in occasione di una festa. Senza sapere niente di lui, ha percepito in quell'omino dai modi spicci e cordiali l'aura della ricchezza e del potere. Hanno parlato di Gorbaciov. Semyonov era favorevole, Edouard contrario, poi di Stalin e qui era l'opposto. Ciò nonostante, si sono piaciuti. «Lei è stato pubblicato in Russia?» ha chiesto Semyonov quando ha saputo che Edouard scriveva. «No». E dubito che lo sarò ancora per un pezzo. Semyonov ha alzato le spalle. Ora si pubblica tutto. Tutto forse, ma non me, ha risposto orgogliosamente Edouard. Sono un autore scandaloso io. Ottimo, ha concluso Semyonov. Allora la pubblico. Il giorno dopo, un tirapiedi di Semyonov ha chiamato Edouard da parte del capo. Si è fatto consegnare da lui una campionatura della sua produzione e lo ha informato che lo stesso Semyonov era un autore di romanzi di spionaggio venduti in URSS in milioni di copie e che nel febbrile clima editoriale della perestroica aveva fondato un settimanale dal titolo «Savierchna Sekretna», che si potrebbe tradurre «Top Secret», un tabloid specializzato in fatti di cronaca nera. Top Secret andava a ruba e Semyonov gli aveva affiancato una casa editrice che pubblicava sia romanzi popolari sia le opere complete di George Orwell. Conclusione: l'epoca gloriosa, il libro sulla propria infanzia che Eduard aveva terminato da poco, è uscito in Russia in una tiratura di 300.000 copie e l'autore è stato invitato a Mosca insieme ad altri due talenti scovati da Semyonov tra gli esuli russi, l'attrice Fyodorova e il cantante Tokarev. Agli inizi degli anni 90 ho partecipato insieme con Paul Ochakovsky-Lorenz, il mio editore, a un viaggio in Russia organizzato dai servizi culturali francesi. Ho conosciuto un pubblico oggi completamente scomparso, follemente entusiasta per tutto ciò che veniva dall'estero. Paul e io ci siamo ritrovati nell'aula magna dell'università di Rostov sul Don, davanti a 500 persone che non avevano la più pallida idea di che cosa avessimo scritto e pubblicato, e si bevevano con fervida attenzione ogni nostra più banale parola, soltanto perché eravamo francesi. Era gloria allo stato puro, indipendente da ogni motivo, da ogni merito, e ogni tanto a me e a Paul capita ancora di tirarci sul morale ripensando a quell'episodio. Ti ricordi di Rostov? Questa esperienza mi aiuta a immaginare l'incontro organizzato da Semyonov al circolo culturale di Smailova e il misto di eccitazione e disagio che deve aver provato Eduard. Lui ha sempre sognato di attirare migliaia di persone, di sedurle, dominarle, ma sa benissimo che quelle migliaia di persone non sono lì per lui. Sono attratte da tutto ciò che proviene dall'Occidente, di qualsiasi cosa si tratti, e anche dalla pubblicità di Semyonov, dal marchio Semyonov, dai suoi romanzi di spionaggio e dal suo giornale pieno di ragazze nude e di cannibali ucraini. Eccolo lì Semyonov, al centro del palco, tozzo, calvo, in giacca e senza cravatta, presenta gli ospiti, dice che è importante far tornare in Unione Sovietica persone come quelle che sono accanto a lui, dinamiche, creative, pronte a rimboccarsi le maniche per ricostruire il paese. Il cantante Tokarev gonfia il petto, l'attrice Fyodorova sbatte le ciglia. Di loro si sa soltanto quanto ripete ossessivamente da due settimane Top Secret, che parla di quella divetta e di quell'oscuro crooner come se in Occidente fossero grandi celebrità. E la consapevolezza della menzogna rovina a Eduard il piacere di vedersi descritto, su una doppia pagina, come una specie di rock star della letteratura. Quando tocca a lui rispondere alle domande del pubblico, fa del proprio meglio per essere all'altezza di quel ritratto. Sì, è stato barbone, poi cameriere di un miliardario americano. No, la sua ex moglie non ha battuto i marciapiedi a New York e ora è sposata con un marchese spagnolo. È tutto vero. E notando che il marchese spagnolo piace molto, Eduard si ripromette di nominarlo ogni volta che gliene capiterà l'occasione. Nessuna domanda sull'omosessualità né sui neri. L'autore dell'articolo ha glissato sull'argomento. A Eduard viene in mente che potrebbe affrontarlo lui, tanto per mettere in imbarazzo il pubblico, ma ritiene più prudente attenersi a quella versione del suo personaggio. Un piccolo proletario che ha saputo farsi strada e arrivare alla vetta del jet set senza lasciarsi intimidire da modelle contesse e dalla degenerazione occidentale. Uno con le palle, a cui non la si dà a bere. Pensava che dopo di lui non dovesse parlare più nessuno. Ma Semyonov presenta un vecchietto che è stato in un gulag e che si lancia in un lungo discorso sulla necessità di fare piena luce sui delitti dell'Unione Sovietica. Eduard ascolta con crescente irritazione e quando il vecchietto spiega con voce belante che non una sola famiglia è stata risparmiata dalle epurazioni, che tutti possono fare il nome di uno zio o di un cugino che è stato prelevato di notte dagli uomini dell'NKVD e non si è più rivisto, vorrebbe intervenire. Dire che bisogna fermare quel lavaggio del cervello, che nella sua famiglia e nella maggior parte delle famiglie di sua conoscenza non c'è stato nessuno che sia stato epurato, ma anche stavolta si trattiene e per distrarsi guarda il pubblico. Sono tutti vestiti così male. Hanno tutti un'aria così provinciale e, fatto strano, allo stesso tempo credula e diffidente. C'è qualche bella ragazza, bisogna ammetterlo, ma neanche un volto conosciuto. Neanche uno dei suoi vecchi amici. Probabilmente non leggono i giornali di Semyonov. Oppure sono morti, di tristezza e di noia. Al termine della conferenza Eduard firma qualche autografo, ma non una sola copia del suo libro. Semyonov assicura che ne sono state tirate 300.000, ma nessuno sembra averlo letto e Eduard non lo vedrà in vendita da nessuna parte. Lui ne è stupito, ma posso garantirvi che non c'è nulla di cui stupirsi, viste le condizioni del sistema di distribuzione. Quando è stato pubblicato in Russia un mio romanzo, quello che giustificava il viaggio con Paul di cui ho parlato prima, l'editore mi ha condotto in un magazzino dove stavano impilando su palette di carico la tiratura completa, tutta destinata alla città di Omsk. A quell'editore sembrava un ottimo affare aver rifilato, Dio sa solo come, a un grossista di Omsk le 10.000 copie del mio libro. Era contento di rendermi partecipe di quella soddisfazione professionale che dimostrava quanto fossi in buone mani. Ha alzato le sopracciglia, stentando a capire, quando ho osservato che però era strano. Perché Omsk? Perché tutta la tiratura a Omsk? C'era una ragione particolare per pensare che i potenziali lettori di Zimny Lager, La settimana bianca, di uno sconosciuto scrittore francese fossero tutti concentrati a Omsk, città industriale della Siberia? Quelle domande gli sembravano assurde. Deve avere pensato che fossi uno di quegli autori maniacali e sempre insoddisfatti che all'uscita di ogni loro libro fanno il giro dei punti vendita e poi telefonano per lamentarsi di non averlo visto esposto come avrebbe meritato. Per festeggiare il successo della conferenza, Semyonov porta tutti i suoi protetti in un ristorante georgiano che somiglia, pensa Eduard, ai ristoranti da mercato nero dei film francesi ambientati durante l'occupazione. Mentre nei negozi per i comuni cittadini non si trova niente, qui i tavoli traboccano di vivande e alcolici. Clienti e dipendenti sembrano comparse incaricate di dare vita a quello che si definisce un ambiente equivoco. Ci sono ricchi, puttane, parassiti, tirapiedi, malviventi caucasici, stranieri già sbronzi. Tutti si ubriacano, si strusciano e non fanno che spendere enormi somme di denaro. Eduard cerca di convincersi che luoghi del genere devono essere sempre esistiti, solo che lui, poeta squattrinato, ne era escluso. Ma no, c'è qualcos'altro. Qualcosa che eccita i suoi compagni di baldoria e a lui procura invece un profondo disgusto. Ci mette un po' a rendersene conto, ma quest'altra cosa che lo ha colpito prima ancora di entrare è lo sguardo del poliziotto appostato sul marciapiede. Non è un vigilante pagato dal ristorante, ma un poliziotto vero, vale a dire un rappresentante dello Stato. Una volta, un rappresentante dello Stato, anche di grado subalterno, era rispettato, incuteva timore. Ora il poliziotto all'ingresso non incute timore a nessuno, e lo sa. I clienti gli passano davanti senza neanche vederlo. Se hanno paura di qualcuno, non è certo di lui. Sono loro che hanno il denaro, loro che hanno il potere, e ormai quel poveraccio in divisa è al loro servizio. A parte i tre invitati venuti dall'Occidente, attorno a Semyonov ci sono una decina di giovanotti che hanno funzioni poco chiare ma sono comunque suoi vassalli. A Eduard non piacciono, è una questione di istinto. Lui rispetta Semyonov come rispetta Jean Dernalier, perché sono capibanda, ma disprezza le loro bande. Lui, Eduard, non si fa comprare, non si fa addomesticare. È un bandito di strada più che disponibile a trattare con il capo, da pari a pari, se i loro percorsi si incrociano, ma non si confonde con la marmaglia dei suoi galoppini, informatori e scagnozzi. Come quello seduto accanto a lui a tavola, per esempio. Un tipo sveglio, vestito come il capo, con una camicia bianca sbottonata sul petto e un abito nero, il quale, invitando Eduard a servirsi abbondantemente del caviale contenuto in un'insalatiera, gli strizza l'occhio dicendo «Mafia». Eduard pensa «Stronzo», ma attacca discorso. E il discorso è istruttivo. Il giovane, non arriva ai 30 anni, racconta compiaciuto del proprio cinismo che le mafie sono un bene per la democrazia, un bene per il mercato, e non ha dubbi che la Russia stia andando verso il mercato, verso il capitalismo come in Occidente, e che non potrebbe esserci nulla di meglio. Naturalmente all'inizio non sarà come stare in Svizzera, piuttosto nel Far West. Ci sarà da sparare, dice divertito, e con la bocca fa ta ta ta ta ta, fingendo di sparare con la mitragliatrice a un gruppo di stranieri che cenano al tavolo accanto. Uno di loro si gira, il volto gli si illumina. Lui e il mitragliere si salutano come vecchi complici. My friend, dice con orgoglio il giovane. American! L'amico americano è un giornalista, mentre il giovane lavora nella società di security ingaggiata dal gruppo Semyonov. Cominciano a recitare entrambi intere scene di Scarface che conoscono a memoria. Edouard beve troppo, scende con passo malfermo a piano interrato e lì prova a chiamare ancora, inutilmente, la madre di Natasha. All'ingresso dei bagni c'è un'inserviente, imbronciata, che Edouard vorrebbe abbracciare proprio perché è imbronciata, sovietica, perché non somiglia ai furbetti che si abbuffano qualche metro più su, ma alla gente povera e onesta in mezzo alla quale è cresciuto. Prova a parlarle, a sapere che cosa pensi di quanto sta accadendo nel paese, ma, come il conducente del pulmino, la donna si rabbuia ancora di più. È terribile. La gente comune, con cui Edouard vorrebbe fraternizzare, non gli dà corda. E invece a quelli che si mostrano ben disposti lui vorrebbe soltanto spaccare il muso. Inizia a salire le scale, cambia idea, ridiscende, estrae dalla tasca la busta che gli è stata data per le spese extra e, lui che si vanta di non fare mai l'elemosina ai poveri, prende alcuni biglietti da 100 rubli, almeno un mese di stipendio della vecchia, e glieli mette nel piattino dicendole «Prega per noi, nonnina, prega per noi». Senza incrociare il suo sguardo, sale i gradini 4 alla volta. Il seguito della serata è confuso. Poco prima di lasciare il locale scoppia un diverbio tra un nuovo arrivato, unitosi tardi alla tavolata, che voleva pagare per tutti e Semyonov, che si è offeso. Quelli sono amici suoi e paga lui, è la sua regola quella di pagare per tutti, in sua presenza nessuno tira fuori il portafoglio. Il giovane incaricato della sicurezza diventa improvvisamente così nervoso che Edouard, nonostante sia ubriaco, capisce che l'eccessiva generosità del nuovo arrivato è in realtà una provocazione. I commensali si alzano spingendo rumorosamente indietro le sedie. I tirapiedi si fanno avanti. La faccenda sembra debba finire come nei film di cui il giovane recita le battute cult, poi di colpo la tensione, così come è salita, scende. Tutti escono e si trovano all'aperto nella neve. Poi all'hotel Ucraina e da lì Edouard prova ancora una volta a chiamare la madre di Natasha. Ma sempre senza trovarla. È stremato, ma non riesce a prendere sonno. Prova a masturbarsi e per farselo venire duro pensa a Natasha, ai suoi zigomi tatari, al luccichio dorato dei suoi occhi, alle sue spalle insieme fragili e insolitamente larghe, al suo culo dilatato dall'uso. Se la immagina in uno squallido appartamento alla periferia di Mosca, barcollante, incattivita, puzzolente di alcol, con la fica di fuori. Se la immagina mentre si fa scopare da due uomini, uno per buco, e mentre si concentra su quest'immagine di cui sa per esperienza che lo porterà all'orgasmo, beh, insomma, a svuotarsi, si ripete con enfasi che la sua patria si sta facendo scopare da mafiosi, inculare da rotti in culo. Ed è proprio questa la prima parola che gli passa per la testa al risveglio. Rotti in culo. Manica di rotti in culo. Solo pochi anni dopo, come tutti gli alberghi della sua categoria, l'hotel Ucraina proporrà sontuose prime colazioni a base di succhi di frutta freschi, 15 varietà di tè e marmellate inglesi. Nel dicembre del 1989 esiste ancora l'Unione Sovietica e Edouard fa la fila davanti a un buffet sovietico gestito come uno sportello postale da una grassona astiosa. È in compagnia di un francese dal bel volto austero che molto cortesemente si presenta. Si chiama Antoine Vitesse, è un regista teatrale e ha riconosciuto Edouard, ha letto parecchi suoi libri e gli sono piaciuti. I due si siedono insieme a mangiare aringhe e uova sode dal tuorlo quasi bianco. Vitesse è già stato diverse volte in Unione Sovietica, parla un po' di russo e nonostante quelle che definisce ottusità, A ogni visita si ritrova a pensare che qui ci sia la vita vera, seria, adulta, con tutta la sua pesantezza. I volti, dice, sono volti veri, scavati, affilati, mentre in Occidente si vedono soltanto facce da bambini. In Occidente tutto è permesso e nulla è importante. Qui invece è il contrario, nulla è permesso, tutto è importante. E Vitesse ritiene che sia molto meglio così. Per questo approva senza troppa convinzione i cambiamenti in corso. Naturalmente non si può essere contrari alla libertà e nemmeno alle comodità, ma spera che non venga snaturata l'anima russa. Edward pensa che è un po' troppo facile vivere nel comfort e nella libertà e voler tenere gli altri al riparo da tutto ciò per il bene della loro anima. Però è contento di incontrare un intellettuale francese che non ha perso la testa per Gorbaciov ed è lusingato che Vitesse conosca i suoi libri e siccome non sa che pesci pigliare si confida con lui. «Mia moglie», dice, «vaga da qualche parte qui a Mosca». Vitesse china il capo attento. «Sì», prosegue Edward. «Hanno avuto una violenta discussione a Parigi, capita spesso. Così di punto in bianco lei è partita una settimana prima di lui e quando è arrivata gli ha telefonato, ubriaca, ripetendo con voce alterata: «Qui è spaventoso, è tutto spaventoso». Da allora nessuna notizia. Per ritrovarla Edward ha soltanto il numero di telefono della madre. Ma la donna non risponde e Edward non ha il suo indirizzo. Il visto di Natasha deve essere scaduto e lei non è tipo da badarci. Dio sa solo dov'è, Dio sa solo cosa sta facendo. Natasha è alcolizzata e ninfomane, è un vero guaio. «Lei la ama?» domanda Vitesse con un tono da prete o da psicanalista. Edward si stringe nelle spalle. «È mia moglie». Vitesse lo guarda con simpatia. «Sì, è un guaio», ammette. «Eppure la invidio. Dopo questa colazione, io mi annoierò a una riunione di burocrati del teatro, mentre lei sprofonderà nelle viscere della città, come Orfeo alla ricerca di Euridice». Edward esce, fendendo il branco di malavitosi di mezzatacca che affollano fin dal mattino la hall dell'albergo. E poiché non sa da dove cominciare le ricerche, procede dritto, a passo svelto, perché ha freddo con il suo giaccone da marinaio e gli stivali che non sono nemmeno foderati di pelliccia. Per attraversare i viali troppo larghi, scende nei sottopassaggi invasi d'acqua sporca, pieni di gente mesta in fila davanti ai chioschi che mettono in vendita povere cose, vasetti di rafano, calzini, mezzi cavoli, e dove nessuno si scusa se vi arriva in faccia la porta basculante. Non ricordava che questa città in cui aveva vissuto 7 anni fosse tanto grigia, triste, inospitale. A parte le stazioni del metrò che sono veri e propri palazzi di gran lunga quanto di più bello ci sia a Mosca, non c'è un posto in cui fermarsi a riposare, a riprendere fiato. Niente caffè, se non sepolti in scantinati, in fondo a cortili interni che bisogna conoscere perché non c'è nessuna indicazione. E se chiedete qualcosa a un passante, questi vi guarda come se lo aveste insultato. «I russi», pensa Edward, «sanno morire, ma in quanto all'arte di vivere sono sempre stati delle frane». Continua a camminare, gironzola attorno al cimitero di Navadievici, sui luoghi del suo amore con Tania. Passa davanti all'edificio nel quale si è tagliato le vene una notte d'estate. Pensa all'assurdo barboncino di Tania, il cui pelo bianco e riccio diventava nero di sporcizia quando arrivava il disgelo. Ha voglia di telefonare a Tania a Madrid, dove lei vive con il suo marchese spagnolo. Edward ha il numero nell'agenda. Ogni tanto si sentono, ma che cosa potrebbe dirle? «Sono qui sotto. Sono venuto a prenderti. Aprimi». Questo dovrebbe dire. Ma è troppo tardi. Tutto il resto è un balbettio sentimentale. Ladies and gentlemen, the blues is my life at least. And yes, as a matter of fact I do, jam them daily.